Sotto il limite del cielo è una serie reportage in 5 puntate con testimonianze, memorie e interviste ad artiste, organizzatori, spettatori e staff del Bethlehem Festival Site Specific, tra Beit Jala, Betlemme e Hebron. Una serie audio in cui il teatro, come luogo di incontro tra identità, memoria e consapevolezza, si declina in uno strumento di ricerca artistica e resistenza in Cisgiordania. Bethlehem Festival Site Specific è il festival di teatro che ha ospitato la performance Footloose della compagnia teatrale Teatri in Gestazione. Il teatro, come strumento di conoscenza e scoperta, diventa spazio di incontro con il popolo palestinese. Questo è l'inizio di una storia, ma per raccontarla è importante testimoniare e farne parte. Musica e Dabka. Ore 10:30, primo giorno di laboratorio nella sala del Halara Theater Studio, in Al Mukhtarabin Street. La sala è sufficientemente grande per il lavoro. Il tappeto in linoleum è circa 3 metri per 3. Siamo curiosi di conoscere i partecipanti. Sono 11, 7 donne e 4 uomini. L'età dei partecipanti varia tra i 14 e i 22 anni. Si conoscono tutti e tutte, appartengono a due gruppi di scuola di danza, un gruppo formato da 4 e un gruppo formato da 7, quest'ultimo del Baladi Center. Malak, Anas, Nicolì, Margarita, Bishara, Natalie, Ahmed, Nadia, Selina, Hazar e Jalal. Ci spiegano che la Dabka, danza tradizionale palestinese, la imparano fin da piccole e piccoli e viene principalmente eseguita in giornate di festività, di celebrazione del Natale, della Pasqua o nel giorno di San Nicola, soprattutto a scuola. Il college ha anche un semestre estivo, dove gli orari di frequenza sono ridotti a un paio d'ore al giorno. Variano in base alla facoltà scelta. Il laboratorio comincia in cerchio. Conoscenza, spiegazione del progetto, condivisione della prima impressione scaturita da esso e inizio del lavoro. Chiediamo ai partecipanti di mostrarci alcune danze su cui hanno già lavorato e che possono eseguire insieme. Spieghiamo loro che su alcuni di questi movimenti lavoreremo per eseguire una coreografia collettiva in slow motion, che sarà fondamentale per la performance del 28 luglio. Divisi in 3 gruppi, i partecipanti e le partecipanti ci presentano 3 danze folcloristiche, spiegandoci il senso del testo e della musica, il significato politico di ognuna e che sono un riadattamento contemporaneo di una danza che anni fa si presentava in altro modo. Dopodiché passiamo alla scelta di 4 movimenti estrapolati dalle 3 danze, in base al loro gusto. Ad ogni movimento mostrato al centro del cerchio, tutti lo ripetono a velocità normale e poi in slow motion, con il supporto della traccia audio specifica per la performance. Alle 17:30 si conclude il laboratorio, dopo che tutti i partecipanti hanno indossato i mattoni con i quali dovranno performare il 28 luglio alle 17. Ammettono di trovare difficoltà nel maneggiare il peso aggiuntivo e nel preservare il mattone durante la marcia. Ciò che gli ricordiamo è di eseguire ogni passo, ogni movimento con cautela. Non c'è motivo di correre. L'aspetto più importante è non farsi del male. Verso sera andiamo al Jala Jungle, un locale situato su terrazze di ulivi che fiancheggia la strada del checkpoint. Filo spinato e bandiere israeliane. Google Maps indica una via che ci obbliga a passare il checkpoint. A piedi 2 ore e 54 minuti. In auto 25 minuti. Seguendo le indicazioni dei palestinesi, 15 minuti a piedi, 7 minuti in taxi. Prendiamo un taxi, ci rendiamo conto che il tragitto è breve. Una volta arrivati, il tassista ci lascia il suo numero di telefono per chiamarlo eventualmente per il ritorno. Entriamo in questo pub che mostra un'ampia area all'aperto su 3 terrazzamenti, tra gli ulivi e il verde. Decidiamo di sederci sotto ad un pergolato di legno con comodi cuscini e ordiniamo diverse specialità del luogo. Mangiamo affamati e soddisfatti del cibo ordinato. Ritorniamo a piedi verso casa. Alle 16 inizia il laboratorio. Al termine delle 2 ore, George ci invita a una sessione di prove del Baladi Center, in un palazzo situato vicino a casa nostra. Due delle ragazze del nostro workshop ci accompagnano molto volentieri. George Matar, production manager dal 2010 alla Lara Theatre e anche coordinatore del Bethlehem Site Specific Festival, nonché regista esecutivo del Baladi Center for Culture and Arts, fondato nel 1991 in Beit Jala. Ci spiega che dal 2015 hanno deciso di renderlo un centro culturale e folcloristico palestinese, la cui visione artistica si incentra principalmente nella danza, producendo propri spettacoli. È una scuola di Dabka, una danza folcloristica di molti paesi del Medio Oriente. Oltre alla scuola di danza, nel Baladi Center for Culture and Arts, c'è anche una libreria pubblica aperta per chiunque. È una scuola ormai che professionalizza i partecipanti e le partecipanti, dove producono proprie canzoni, proprie danze, moderne e tradizionali. Nel 1998 ha iniziato anche lui a far parte di questa scuola, come il più giovane ballerino. Aveva circa 8 anni. Ha continuato fino a quando è diventato regista esecutivo. Ad oggi il gruppo più composito è costituito da 38-40 ragazzi e ragazze. Il gruppo più giovane, invece, è composto da 25 partecipanti, tra i 15 e i 18 anni. Da quando la Palestina è stata occupata dall'invasione israeliana nel 1948, la Dabka si è connessa con l'identità dei palestinesi in modo molto più forte di quanto fosse prima. Questo è uno dei motivi per cui sentono la necessità di preservarla di generazione in generazione, introducendo nuovi modi per raccontare le loro storie. Originariamente la Dabka si ballava con i piedi, invece ora si coinvolge anche la parte superiore del corpo. Questa danza è veicolo di narrazione di storie drammatiche, romantiche, patriottiche, e la pratica del teatro ha permesso a questa nuova forma di danza di incuriosire il popolo palestinese, in un'ottica di rilettura della tradizione in prospettiva contemporanea. George ci dice che le arti performative, le arti in generale, sono un buon modo per esprimere il sentimento di chi le pratica, per sottolineare la loro lotta contro l'invasione. Le persone che danzano riescono ad esprimersi attraverso l'arte con libertà, senza né barriere né limiti. Al secondo piano di questa struttura c'è una sala dove 20, tra ragazzi e ragazze, seguono le direttive di George. Le musiche si succedono e loro si dispongono magicamente in uno spazio molto ristretto. È una sala di ballo con un lungo specchio su uno dei 4 lati. Il pavimento è ben ricoperto dal tappeto che usualmente si trova nelle sale, ma il caldo è eccessivo, si esala sudore facilmente e loro sono tanti. Durante le prove notiamo alcune coreografie di balli Dabka, in cui uomini e donne si dispongono in diversi spazi, o a volte mischiandosi in gruppi per riscenare narrazioni in movimento, ritmate dalle musiche. I balli si ordinano in una gestione dello spazio estremamente efficace, senza rinunciare all'intenzione ritmica ed emotiva necessarie per l'esecuzione della danza. Una volta concluse le prove, alcuni di noi preferiscono scendere Old City Street e girare sulla destra all'incrocio con Sarar Street per mangiare un sandwich con falafel. Il locale sta per chiudere, il cuoco ci guarda e ci chiama a sé. Prende un sandwich intero e uno tagliato a metà, li chiude con un paio di tovaglioli e li imbusta. Chiede 5 shekel cada uno. Li paghiamo e li mangiamo non lontani da casa. Passiamo la serata sul terrazzo. Il 22 luglio qualche nuova stella compare dal buio. Alle 6 sveglia. Decidiamo di andare a Gerusalemme. È domenica. Verso le 7 prendiamo il bus. La volta precedente, all'entrata per l'Al-Haram al-Sharif, le autorità militari israeliane non ci avevano lasciato entrare. Solo di domenica era possibile visitare quell'area, dalle 7 alle 11 del mattino. Passiamo per Merchants Market, bancarelle a destra e a sinistra, di artigiani palestinesi che iniziano a preparare i tavoli per i primi clienti. I militari ci dicono che per entrare bisogna attraversare il metal detector dalla parte del West Wall. Dopo vari tentativi a vuoto tramite diverse entrate, capiamo il passaggio attraverso cui arrivare al Monte del Tempio, Al-Haram al-Sharif. Dispiegamento enorme di giovani militari israeliani, di 20 anni all'incirca. Ti scrutano da lontano e ti seguono con lo sguardo fino alla soglia del checkpoint. Una volta entrati nel luogo di culto islamico, una di noi viene invitata ad indossare una gonna per coprire lo spacco del vestito e ad allacciare la propria camicetta per evitare il taglio sul seno. Nessuno di noi può entrare all'interno della moschea o di qualsiasi altro edificio lì presenti, in quanto non musulmani. L'area è molto grande, la cupola della roccia si staglia nel centro dell'area. Ad est, invece, si erge la cupola della catena con i 4 minareti. Altre 4 cupole si dispongono all'interno dell'area del Monte del Tempio. La cupola dell'Ascensione, la cupola del Profeta, la cupola di Yusuf e la cupola di Al-Khalili. L'intera area è circondata da mura erodiane, caratterizzate da 11 porte da cui entrare. 10 di queste sotto il controllo dei musulmani. All'interno ci sono viali all'ombra tra olivi e terrazzamenti che arricchiscono l'architettura del luogo. Ci richiamo a casa di Marina e sua sorella Amira. Tavola imbandita con pollo al forno, insalata con pomodori, riso in bianco con cannella, zuppa di verdura, zuppa di fagioli piccanti e melanzane. Parliamo del laboratorio e del nostro entusiasmo per i partecipanti. Ci spostiamo in salone per mangiare delle fette di anguria. Parliamo di politica e della situazione palestinese in Beit Jala. Marina e Amira ci raccontano che chi vive lì è sotto occupazione dal 1948. La loro vita, la loro quotidianità, è connessa a questa oppressione israeliana che le forze militari esercitano in termini di checkpoint, arresti e distruzioni di case. Cercano, ovviamente, di separare questo aspetto dal quotidiano, ma non ci riescono, perché la loro vita è politica di default. Come teatro di quartiere, come artisti, sentono di avere una responsabilità nei confronti della loro gente prima e del mondo poi. Quindi cercano di capire quali siano i messaggi prioritari che vogliono trasmettere in un certo periodo. Perché ogni giorno succede qualcosa di diverso. Così a volte sentono che la priorità è parlare della questione sociale. Fanno un lavoro di ricerca e fanno uno spettacolo su quella tematica. A volte sentono che devono dire qualcosa di politico ai palestinesi che vivono sotto occupazione e cercano di trovare un modo per farlo. Dipende dalla situazione. Una volta, ricorda Marina, il regista italiano Pietro Floridia, di Bologna, venuto lì per lavorare con loro, voleva mettere in scena qualcosa di politico, ma tutti loro si rifiutarono, perché volevano fare qualcosa di classico, di internazionale. Egli, però, propose la metamorfosi e al primo giorno di prove venne con l'idea della scenografia, un cubo metallico. I nomi dei personaggi non furono cambiati. Nel momento in cui la scenografia era pronta e Gregor era all'interno di esso, il cubo rappresentava per loro Gaza. La gente di Gaza è bloccata in quest'area che è davvero molto piccola. È l'area più compressa del mondo e la gente si sta trasformando nel personaggio di Gregor a causa della pressione, dell'oppressione, dei partiti politici, dei partiti religiosi. La gente si sta trasformando in un animale. Anche quando si sceglie di non dire nulla di politico e si opta per un argomento completamente diverso, le persone tendono comunque a interpretare tutto in base a come influisce sulla loro vita. Forse questo esempio scenico in un altro paese verrebbe interpretato e letto in modo diverso, perché i palestinesi sono stati privati della propria identità e per molto tempo non hanno avuto un passaporto. Un altro ricordo che Marina ci condivide è di quando si viaggiava con un documento di viaggio e vicino alla voce nazionalità c'era scritto Apolide. Per quanto mi riguarda, personalmente non ho studiato teatro e non ho fatto teatro quando ero all'università. Ho iniziato in modo completamente diverso. Ho iniziato con l'inglese, sono stata insegnante e poi ho lavorato come addetta all'informazione pubblica all'ONU. Quindi sono arrivata al mondo del teatro per caso. All'inizio non capivo cosa facessero gli artisti, ma ciò che mi spinse a continuare era l'impatto del teatro sui bambini e sui giovani. Quando vedo soprattutto giovani donne che si trovano in una società patriarcale, molto controllata, molto opprimente, e fanno teatro, poi diventano molto più sicure di sé, orgogliose. Possono dire ciò che vogliono sul palco e possono parlare dei problemi senza paura, perché questo è ciò che il teatro dà loro. Alle 18 del giorno seguente usciamo e ci dirigiamo in uno dei vicoli interni di Old City Street. Il gruppo con cui abbiamo chiacchierato fino a tarda notte lo troviamo lì con Nicola, con un pozzo coperto al centro del cortile. Ci dicono che al piano superiore di una delle case stanno provando. La loro performance avrà luogo il 26. Verso le 19 andiamo all'Orthodox Sports Club, dove George e il suo gruppo Baladi hanno le prove per una manifestazione che si terrà la settimana prossima in Giordania. In alcune pause chiacchieriamo con Nadia, danzatrice del Baladi e partecipante del nostro laboratorio. Ad agosto compierà 22 anni, si è appena laureata in fisioterapia. Una volta chiuso il teatro, George ci accompagna alla Hasib al-Sabah and Said Khoury Convention Palace di Betlemme, nel villaggio di San Giorgio, dove assistiamo al concerto di Arabic Orchestra. 1 ora e 30 minuti di concerto, eseguito dai musicisti e musiciste di diversi conservatori della Palestina. È un centro congressi a 4 km dalla città di Betlemme. Dispone di una sala riunioni, sale espositive, un teatro, giardini e sale di preghiere interreligiose e una caffetteria. Rientra in un progetto di integrazione architettonica tra il palazzo e alcuni monumenti vicini, come il Kaalat Murad, le piscine di Salomone e il centro dell'artigianato. Le piscine sono 3 antichi bacini idrici risalenti al periodo del sultano ottomano Salomone e si trovano nel centro-sud della Cisgiordania, nell'area A controllata dai palestinesi, ma nell'aprile scorso i coloni israeliani hanno invaso il sito sotto stretta protezione delle forze d'occupazione israeliane e hanno recitato delle preghiere per provocare i residenti locali. Le piscine di Salomone sono soggette a frequenti incursioni da parte dei coloni nel loro tentativo di assumere il controllo del sito turistico, che sostengono essere di importanza religiosa. Sono situate a un'altitudine superiore a quella della città e un tempo rappresentavano una delle più antiche fonti d'acqua. Le 3 cisterne di forma rettangolare, parzialmente scavate nella roccia, sono enormi serbatoi per la raccolta di acqua di sorgente e piovana, che viene portata verso Betlemme e poi fino a Gerusalemme. Sono state in uso fino al 1946. Entriamo nella sala. I posti a sedere si dispongono in 3 file. Quelli più vicini all'entrata, laterali e centrali, sono coperti da enormi bandiere palestinesi. Il concerto ha inizio. 15 opere musicali vengono eseguite da 30 musiciste e musicisti. Il teatro si scalda velocemente, tutti e tutte cantano dalla propria seduta, è evidente che la musica sia parte identitaria e politica. Il concerto termina in un trionfo di applausi in standing ovation. Torniamo a casa, ci sono nuovi ospiti nella struttura in cui pernottiamo, 4 donne palestinesi, artiste del festival. Facciamo amicizia e chiediamo loro alcune cose sulla situazione palestinese. Ci dicono che la legge della ragionevolezza votata oggi in maggioranza dal Parlamento israeliano, Knesset, sancirebbe meno poteri alla Corte Suprema. Questo vuol dire che la Corte non potrà più mettere in discussione o valutare nulle le proposte di legge. Un passo ancora più vicino all'estrema destra. Questa riforma sulla giustizia avrà ulteriori ripercussioni nella repressione sul popolo palestinese.